un Erasmus fuori gli faccia sapere che può far domanda fino al 10 febbraio. C'è anche l'Erasmus Student Network, che è l'associazione, per chi non lo sapesse, che coinvolge tutti gli Erasmus, sì, sono più di 18.000 volontari in tutta Europa, che si è attivata, manderà un comunicato stampa e sta informando tutte le università. Comunque, lo sapete, fatevi avanti, sia sponsor sia studenti, c'è questa opportunità, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno a 1.000 studenti da qui a una settimana, che ricevono un rimborso e quindi possono votare. Certo. Io ricordo sempre che l'Erasmus è un grande progetto di cittadinanza europea, però la cittadinanza europea non può passare per, come dire, rinunciare alla cittadinanza italiana. E infatti è stata questa la protesta, è stato questo l'urlo, anche disperato, ci sentiamo. Siamo italiani, siamo all'estero per fare un'esperienza, ma vogliamo contribuire, dare il nostro contributo democratico al paese. Marco, grazie davvero, complimenti come sempre per le attività della vostra fondazione. Ricordiamo ancora garaserasmus.org. Ciao, grazie. Buon lavoro. Grazie a voi, ciao. 800.000 persone per gli organizzatori, 300.000 per le forze dell'ordine, che sono scese in piazza per dire no alla proposta di legge lanciata da Hollande in Francia per le nozze gay. Qualche giorno dopo, ancora decine di migliaia di persone in piazza, questa volta per appoggiare questa legge che è stata un po' una delle bandiere della campagna elettorale di Hollande. Legge in discussione ora al Parlamento, dopo l'ampia maggioranza il provvedimento va verso l'approvazione, ma ci sono 5.000 emendamenti, alcuni dei quali anche surreali, al di là dell'idea che c'è sotto. Per capire quello che sta succedendo in Francia, per capire come anche davanti a una protesta, in parte anche a un consenso, comunque a un confronto forte, si sta muovendo il partito, il governo, abbiamo con noi Valerio Motta, che è responsabile internet per il Partito Socialista Francese. Buongiorno Valerio, benvenuto all'Altra Europa. Non so se dire giornate o settimane calde comunque in Francia attorno a questa legge, si va al di là della politica perché si entra proprio in quello che è il costume, in quella che è la rete sociale di un paese. Ci puoi fare la fotografia attualmente, cosa sta accadendo attualmente, in che fase siamo? C'è un grande interesse per questo dibattito, che si vede molto sui social network. Siamo in una situazione dove c'è, come dire, un livello di attenzione alla diretta dell'Assemblea nazionale che non si fa mai nel paese, ma per noi soprattutto è il camminamento di un'idea, l'idea di uguaglianza, la seconda parola del famoso liberté, égalité, fraternité francese. E devo dire che si parla molto di più qui di matrimonio per tutti che di matrimonio gay, perché c'è questa idea di universalità, di accesso ai diritti uguali. Ma può essere, o comunque tu sei responsabile della rete, quindi hai la percezione di quello che succede soprattutto sui social network, che comunque è anche uno spazio virtuale magari frequentato più dai giovani, più da persone attive. Ma questa legge può spaccare il paese, secondo voi? C'è il timore anche per chi è al governo? Ma c'è una destra cattolica, diciamo, che abbiamo visto in queste manifestazioni, che si vede molto, ma quando guardiamo l'opinione pubblica, i sondaggi sono molto in favore del matrimonio per tutti. Si parla di risultati tra il 55 e il 65% secondo gli istituti. Le cose, lo so, sono un po' più equilibrate sull'adozione, ma dall'inizio del dibattito gli approvi, le persone che appoggiano il progetto, a questo cifra cresce. Ecco, la questione forse non è tanto quella del matrimonio quanto quella dell'adozione, la questione che sta scatenando le proteste maggiori, vero? Adesso la destra prova soprattutto di parlare, di dare molto confusione al dibattito, di parlare, di fare paura all'opinione pubblica, ma adesso in Francia tanti cittadini sanno che ci sono già le famiglie che chiamiamo omoparentali, ci sono 40.000 famiglie in Francia che hanno bambini e che sono in una situazione dove i bambini sono, non sono protetti se c'è, c'è uno dei due genitori che muore, e dunque c'è una vera problematica di dare sicurezza a queste famiglie. Cosa succederà dei, e con i 5.000 emendamenti presentati in Parlamento? Ah, so che cifra di 5.000 può stare, può essere un po' impressionante, ma ce ne sono già centinaia che sono stati disapprovati nelle note di dibattito all'Assemblea. Dunque è una prova per rallentare il voto della legge, ma il voto si farà, penso che si farà la settimana prossima o l'altra settimana dopo. È soprattutto una prova di rallentare il processo, ma non sarà qualcosa che lo bloccherà. Ecco, dal punto di vista della rete, di internet, tu come ti stai preparando a questo voto finale? Cosa accadrà? Cosa ti immagini che possa accadere? Allora, ci sono due cose. C'è una lunga mobilitazione che è iniziata durante la campagna elettorale, con il voto anche per le elezioni politiche in giugno. Abbiamo preparato diversi argomenti, diversi testi, video, e continueremo. E soprattutto adesso siamo in una fase dove nel dibattito dell'Assemblea nazionale siamo sempre in diretta sui social network, e i deputati partecipano con tweet alle discussioni. È molto interessante di vedere che la destra adesso manca un po' di forza quando si arriva nella discussione sul testo, proprio sul testo. Mm-hmm. Grazie davvero, Valerio. Insomma, volevamo un po' fare un quadro, ovviamente non volevamo entrare nel dibattito mancando la controparte, però ci interessava capire cosa succede anche a chi deve prendere delle decisioni, a chi è al governo e chi porta cambiamento anche su tematiche sensibili che appunto possono scatenare confronti anche aspri, come sta accadendo in Francia. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Si chiama Nackte Männer, uomini nudi, ed è una mostra, una controversa mostra che c'è al Leopold Museum di Vienna, e dal 19 ottobre fino al 4 marzo, una mostra che per la prima volta viene interamente dedicata al nudo maschile. E, per capire come è stata presa, quelle che sono state le reazioni e soprattutto anche alcune iniziative curiose lanciate dagli organizzatori della mostra, c'è con noi Klaus Pokorny, che è il capo ufficio stampa del museo. Buongiorno Klaus, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno signor Tidia. Buongiorno. Allora sì, è veramente un progetto curioso, diciamo, come ha detto lei, è assolutamente unico, e come dice il nostro curatore Tobias Natt, era anche ora di dedicare una mostra al nudo maschile. Mm-hmm. E questo è il nostro punto di vista. E cosa si vede in questa mostra? Cosa è esposto? Quello che promettiamo, manteniamo anche. La mostra è piena di nudi maschili, ma partiamo proprio nel lontano passato, iniziando da una scultura egiziana, e poi arriviamo fino all'arte contemporanea, e in un tratto della mostra, è proprio una mostra classica, e certamente più ci avviciniamo al presente le cose diventano più decise, e anche ci sono anche opere magari che non piaceranno a tutti, ma che comunque parlano sempre dell'uomo, della natura dell'uomo, e anche del cambiamento, di come noi vediamo la figura maschile. Certo, l'idea della mostra è proprio quella di fare cultura, creare anche dibattito e pensiero, perché appunto un nudo femminile in mostra è normale, nessuno si scandalizza, e invece un nudo maschile viene subito così, passa per volgare o passa come una provocazione. Questa è un po' l'idea che c'è dietro a questa esposizione. Come ha fatto scalpore? Ci sono state proteste o comunque invece il lato artistico, il lato culturale per fortuna ha prevalso? Diciamo C'era sì una specie di scandalo e tutto partito dal nostro post, no? Abbiamo due post, uno fa vedere un disegno del Schiele, Egon Schiele, un espressionista austriaco abbastanza riconosciuto, direi, come Klimt, Kokoschka o anche un Picasso. Siamo ormai abituati a vedere un post del genere. Invece ancora 5 anni fa, quando al Leopold Museum di Vienna era in mostra una mostra che si chiamava La Nuda Verità, sì, parlando dei scandali intorno al 1900 nell'arte, allora volevamo mettere un poster di Egon Schiele su un trenino a Vienna e ancora non era possibile. Invece questa volta c'era anche il permesso da parte del comune. E appunto, come ho detto, per Schiele nessun problema. Invece c'era un altro post, una foto di due artisti francesi, si chiamano Pierre e Gilles, sono molto conosciuti nel mondo dell'arte, sì, e ci fa vedere tre calciatori con le calze, però per il resto tutto nudi, diciamo una figura che potrebbe essere un arabo, come li troviamo anche a Parigi, in Francia, tantissimi fanno parte del mondo francese, poi un uomo di colore e un bianco. E si chiama Vive la France, stavano pensando anche ai mondiali, quando avevano vinto i mondiali, ma è anche un simbolo di tolleranza, un simbolo anche di gioia, di vita, no? E questa foto, che non vediamo altro che questi uomini nudi, tanta gente non sopporta vedere il corpo maschile nudo. E c'erano proteste e anche abbastanza pesanti. Se abbiamo appena pubblicato sulle nostre pagine in Facebook questo poster nato per pubblicizzare la mostra, facebook.com/l'altraeuropa se lo volete vedere. Klaus, un'ultima domanda: il 18 febbraio il museo rimarrà aperto oltre l'orario normale per permettere ai naturisti di poterla visitare nudi. Come mai questa scelta, questa idea? Sì, anche questo è una cosa, direi, anche carina, perché anche anni fa, quando c'era la mostra Nuda Verità, avevamo deciso, era anche d'estate, di aprire il museo a tutti quelli che volevano venire al museo senza vestiti. Era anche un bel successo, e questa volta invece la cosa era molto diversa, perché non volevamo ripetere una cosa che forse avevamo già fatto. Invece c'era richiesta, c'era tanta gente che ci ha detto: ma non avete magari un giorno speciale che possiamo venire? Ci sono gruppi anche dalla Germania, dalla Svizzera ad esempio, che hanno detto che vogliono venire, e così abbiamo cercato di organizzare proprio un giorno dedicato interamente ai naturisti, ai nudisti. Possono venire tutte le opere, tutto il mondo è invitato, chi ha voglia venga a Vienna, viene da noi, e ci sono delle visite guidate dalle 18 alle 21, sarà una serata speciale. Perfetto, grazie davvero. Ricordiamo ancora il sito, che è leopoldmuseum.org. Grazie davvero Klaus e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, l'altra facebook.com/l'altraeuropa se volete trovarci su Facebook, oppure @ Federico Taddia, l'account su Twitter, lì potete trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Parliamo di natura e d'Europa. In questi giorni l'Unione Europea ha aggiornato gli elenchi dei SIC, delle nuove regioni biogeografiche. SIC significa siti di importanza comunitaria, sono aree che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale. Per capire cosa sono e per capire anche l'importanza di questi periodici aggiornamenti, abbiamo con noi Pia Buccella, che è direttrice della Direzione Generale Natura, Biodiversità e Uso del Suolo del Direttorato Generale Ambiente della Commissione Europea. Buongiorno Pia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Allora, cerchiamo di capire che cos'è un SIC, che cos'è una regione biogeografica. Allora, un SIC è una zona perimetrata, calcolata, che fa parte di 18.000 altri SIC in Italia e che copre complessivamente a livello europeo circa il 20% della nostra superficie terrestre, e adesso stiamo lavorando per stabilire con gli Stati membri la superficie dei SIC marini. Okay. Dunque, un SIC è una zona che gli Stati membri, assieme ai servizi della Commissione, ai miei servizi, hanno definito come zone meritevoli di particolare conservazione, vuoi perché ci sono degli habitat, delle specie vegetali che vanno protette, vuoi perché ci sono delle specie faunistiche che vanno protette, e quindi ormai da un 20 anni abbiamo lavorato con tutti gli Stati membri per definire questi SIC. Okay. E ogni anno si aggiornano, perché lo Stato membro propone dei leggeri cambiamenti. Mm-hmm. Insomma, sono aree speciali, sì, sotto questo cappello anche di Natura 2000, che è stata istituita dalla direttiva Habitat per proteggere e conservare gli habitat e le specie animali e vegetali. La definizione di un SIC ha poi delle ricadute nella zona geografica definita? Certo, perché il SIC deve poi formare oggetto di misure di conservazione, di un piano di gestione. Per far questo vi erano 6 anni dall'adozione definitiva, e questi 6 anni sono scaduti e, per esempio, dall'Italia non abbiamo ancora ricevuto nessuna informazione sulle misure che verranno prese per garantire la conservazione. Ho capito. E questo ci preoccupa. Assolutamente. Pia, le faccio un'ultima domanda, un po' quasi personale. Si parla tantissimo di Europa e subito si pensa al lato economico, al lato politico. Poi c'è anche il lato della natura. Cosa vuol dire svegliarsi ogni mattina, andare in ufficio e sapere che c'è un pezzettino piccolo d'Europa, però da difendere assolutamente coi denti? Ah, io penso che è un compito meraviglioso, perché è un compito che tutti capiscono, che i giovani, i bambini, gli adulti, tutti sanno cosa vuol dire proteggere la natura. È un compito che ci garantirà anche di proteggere la natura per le prossime generazioni, e purtroppo però devo dire che molto spesso in Italia temo non gode dell'attenzione necessaria. Mm-hmm. Ecco, è così un altro patrimonio che si rischia di disperdere. Un grazie a Pia Buccella del Direttorato Generale Ambiente della Commissione Europea. Buon lavoro, Pia. Grazie, buona giornata. 3 million people in 65 countries cleaned up more than 100,000 tons of waste during World Cleanup 2012. And World Cleanup 2013 is coming. Still, we have to be honest about one thing. Cleaning up the trash is not something we want to keep on doing forever, is it? Let's take it to the next level. Let's start to look at the root causes and work together to bring permanent change in the world. We have the great pleasure to invite you to the place where the real change starts. Let's do it. Clean World Conference 2013. Which will take place on the 1st to the 3rd quello, of February. Quello che state ascoltando è uno dei video di Let's Do It World, che dice che milioni di persone hanno partecipato negli anni a questa manifestazione per cambiare, per smettere di produrre così tanti rifiuti. Una conferenza che si sta tenendo in questi giorni a Tallinn, e per capire qual è l'idea di questo incontro, ma per capire anche come si parte da Tallinn per poi stellarizzarsi in tutta Europa o in tutto il mondo. C'è con noi Vincenzo Capasso di Clean Up Napoli e segretario organizzativo del forum Gioventù della Campania. Ciao Vincenzo, benvenuto all'Altra Europa. Salve a tutti, buongiorno. Allora, parleremo parallelamente di due cose. Una è quello che stai vivendo tu a Tallinn e poi quella che sarà la ricaduta a Napoli. E, chi siete e cosa state facendo? Sì, ok. Abbiamo iniziato ieri, è iniziata la conferenza internazionale di questo progetto Let's Do It, che nasce nel 2008 in Estonia. L'idea è semplice, l'idea è quella là di ridurre insieme tutti quanti, riuscire a creare una rete insieme a tanti altri paesi del mondo. Ad oggi sono circa 96, la conferenza sono 50 nazioni che partecipano con circa 200 persone, per cui una buona rappresentanza, direi, e un'ottima occasione soprattutto di confronto per riuscire poi dopo a fare un qualcosa in tema ambientale, sulla sostenibilità e sul riciclo. Il centro, in Italia, diciamo, ne abbiamo bisogno. Assolutamente, il centro è proprio quello, sono i rifiuti, sono la produzione esagerata di scarti, quindi cercare soluzioni alternative. Sì, noi proprio stamattina infatti abbiamo fatto uno dei workshop, era con un'organizzazione internazionale, la Zero Waste, e insieme a loro, diciamo, abbiamo iniziato a fare un punto della situazione e le varie possibilità sugli strumenti, sui nuovi strumenti che si possono adottare proprio sul riuso, sul riutilizzo, sul riciclo, perché poi dopo l'importante è fare il meno scarto possibile. Certo, e tu stai portando anche l'esperienza di quello che state facendo, di quello che farete a Napoli? C'è un confronto anche tra iniziative locali? Sì, noi diciamo che due mesi fa abbiamo iniziato a creare un coordinamento in Italia. Ad oggi abbiamo un unico grande evento da fare a giugno e abbiamo scelto un luogo simbolo, il luogo simbolo dell'Italia, un luogo simbolo conosciuto in tutto il mondo, che è il Vesuvio. Il Vesuvio è stato sempre simbolo, anche negli anni passati, di una gestione dei rifiuti spesso errata, infatti ha fatto un poco da sfondo a tutto il panorama napoletano e spesso l'abbiamo trovato su tutti i giornali, per cui abbiamo deciso proprio di ricominciare da Napoli, di riappropriarci di un territorio che spesso è stato abbandonato a se stesso. Certo. Per cui ricominciare da Napoli, un'Italia unita e che vedrà la partecipazione anche di molti paesi che stanno supportando il progetto. E, Vincenzo, veramente in sintesi, che cosa sarà concretamente Clean Up? Sì, ok, l'idea è quella là di portare almeno 10.000 persone sul Vesuvio e far conoscere un territorio, iniziare a comprendere la problematica. Abbiamo tantissime discariche abusive sul Vesuvio, abbiamo tipologie di rifiuti spesso tossici, per cui la problematica più grande poi sarà affrontare questo tipo di rifiuti, ecco, insieme a tutti quanti i volontari e insieme alla rete che noi andremo a creare, che vedrà partecipe istituzioni, associazioni, cittadini, volontari, perché creiamo soprattutto nel creare una rete che possa affrontare tutte le esigenze, che possa arrivare e dopo possa coinvolgere tutte le istituzioni, soprattutto anche. Certo, sarà bello anche sentire il parere degli stranieri che verranno lì a Napoli, sul Vesuvio, e noi ci saremo, ci diamo già appuntamento perché vorremmo dare voce a queste testimonianze. Un grazie davvero a Vincenzo Capasso, ricordiamo cleanup.wordpress.com il sito per avere tutte le informazioni. Ciao e buon lavoro. Sì, abbiamo anche un sito dell'iniziativa, se direttamente letsdoititaly.org, che ci stanno tutte le iniziative relative al progetto. In più abbiamo fatto una call per i volontari, dove chi vuole dare una mano si può iscrivere. Ottimo, grazie, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Mobilità, contaminazione, incontro, cultura sono parole che da sempre accompagnano l'altra Europa. Quello che state ascoltando è la musica di una fisarmonica, di un violino, di una chitarra, di un contrabbasso, di percussioni che hanno deciso di conoscerla, di scoprirla, questa Europa. Loro sono i Guappe Cartò, un gruppo musicale di italiani a Parigi e non solo. E con noi c'è Claudio Del Vecchio, che è alla fisarmonica. Ciao Claudio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Intanto, Guappe Cartoi, guappi di cartone, come mai questo nome? Da cosa nasce? È una missione, semplicemente, lo chiamo. Ci insultiamo prima che possano farlo gli altri. Ho capito. Come e dove nascete? Qual è l'energia che vi ha spinto a incontrarvi e soprattutto a scegliere l'Europa come vostro grande palcoscenico? Beh, siamo nati nel centro dell'Italia, siamo nati in piena Umbria, tra Gubbio e Perugia, su una collina che sembra il paradiso. Ed è stata una donna che adesso avrà 75 anni, un'ex attrice, una persona splendida, la nostra mamma artistica. È stata lei a unirci, perché a darci coscienza, insomma, delle nostre capacità prima di noi. E quindi diciamo è stata lei soprattutto a viziarci, perché ci ha trattato sin da subito come delle rockstar. e dopodiché, insomma, ci ha fatto scoprire, ha fatto capire che questo gruppo, insomma, poteva andare lontano, soprattutto in senso veramente fisico. E quindi, siccome all'epoca suonavamo per strada, provavamo sempre per strada, abbiamo preso la strada per andare verso Parigi. E Parigi... è stata più che altro anche la voglia di conoscere, la voglia di scoprire, che ci ha portati fino a Parigi. E Parigi come vi ha accolti? Cosa significa arrivare a Parigi per concretizzare un sogno, che è anche quello di vivere di arte, vivere di musica? Ma a noi sembrava il paradiso all'inizio, perché comunque il fatto di suonare in un gruppo con strumenti acustici era un po' difficile in Italia, perché comunque sono sempre molto più rari, a meno che non sia nell'ambito della musica popolare. Noi siamo arrivati a Parigi, c'erano più di mille bar dove poter suonare. E quindi, dopo aver passato l'estate suonando per strada, abbiamo iniziato a vedere che c'era possibilità di suonare anche ogni giorno, volendo. E quindi ci siamo detti che siamo nel posto giusto. Mm-hmm. E da lì le vostre strade non si sono fermate, nel senso che avete tenuto Parigi come cuore della vostra attività, però avete avuto altri assaggi d'Europa. Sì. Ma guarda, la nostra fortuna è quella di non avere parole. È una musica comunque strumentale che permette di essere capita da tutte le età e da tutte le culture. È un po' il nostro vantaggio, quindi comunque abbiamo girato molto, molto in Europa. In Francia, vabbè, abbiamo girato tantissimo, ma siamo arrivati in Portogallo, in Spagna, in Germania, in Svizzera. E comunque, questa è la fortuna di avere comunque un linguaggio universale, dove sai che tutti possono capire. Mm-hmm. E la vostra italianità è rimasta in qualcosa? È rimasta in qualche melodia? È rimasta in qualche, non lo so, in qualche consuetudine che avete durante i concerti? O siete completamente ormai contaminati con tutto il resto d'Europa? Noi siamo tutti contaminati, per fortuna. Guarda, secondo me noi giochiamo molto a livello estetico sul fatto di essere dei guappi di cartone, e quindi comunque personifichiamo un po' quell'immaginario italiano anni 50, quindi Borsalino e giacca e camicia e pantaloni. Mm-hmm. Però secondo me musicalmente quello che comunque abbiamo di italiano è molto è quel senso della melodia, che per noi comunque rimane fondamentale. No, comunque sì, ci sono molte contaminazioni, come del resto l'informazione oggi è talmente ampia, possiamo ascoltare musica da tutte le parti del mondo. Mm-hmm. Però comunque secondo me il senso della melodia è una cosa che abbiamo ereditato dall'Italia. Giacca, cappello e violino, la musica in viaggio dei Guappe Cartò. Se volete leggere la bella intervista pubblicata da Caffè Babel, caffèbabel.it, il sito. Questa è la musica dei Guappe Cartò, guappecartò.com è il sito ufficiale. Claudio, avete anche delle date imminenti, il 9 a Mazan, sempre ovviamente in Francia, giusto? Sì, purtroppo in Italia non ci stiamo lavorando molto sull'Italia. Come? No, dico, probabilmente non vi interessa nemmeno in questo momento, state bene lì. No, non è che non ci interessa, è che trovare una data in Italia è complicatissimo, non perché te la rifiutano, perché non ti danno risposte, più che altro. Ho capito. È un po' un casino, però andiamo sul sicuro. Quindi sì, andiamo nel sud, nella Francia, per 4 giorni, a Mazan, e poi facciamo un concerto in prigione, una prigione nella regione valigina. Suoniamo allo Squad di Rivoli, perché sono il 15 e il 16 febbraio, e poi insomma stiamo preparando la tournée di primavera. Perfetto. In Europa. Guappecartò.com il sito. Ciao e grazie Claudio, a te e a tutti i tuoi compagni di viaggio. Io invece ringrazio tutta la mia squadra, Margherita Ina e Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Peter Bescapè alla parte tecnica e Giorgio De Luca oggi in assistenza. Radio24.it il sito da dove riascoltare il podcast, oppure fatevi vivi, @ Federico Taddia su Twitter, via Facebook, oppure l'altraeuropa@radio24.it. c'è già il gastronauta dall'altra parte del vetro e sarà qui in onda subito dopo il GR. Ancora ciao da Federico Taddia.